Ehi ragazzi, sentite questa. Dalla radio ci chiedono di fare gli auguri di buone feste agli ascoltatori di Radio Big World. Che dite? Comincio io? Eh no, gli auguri di buon anno agli ascoltatori di Radio Big World li faccio io. Ma manco per idea, gli auguri di buon Natale agli ascoltatori di Radio Big World li faccio io. All'attacco! Ce l'ho fatta! E invece ho vinto io! Alla fine ho vinto io! Auguri dai grandi condottieri ma piccoli conduttori! Francesco, Alessandro e Giorgio! Ah, ma io non sono piccolo! Con queste mazzate starei zitto fino alla Befana!